Allora, in questa parasha di Lech Lecha, la Torah ci racconta di Avraham Avinu. E ci racconta di alcune sfide, di alcuni ostacoli, di alcune prove, esperienze di Avraham e di Sarah. La cosa strana è che noi veniamo a conoscere in questa parasha Avraham Avinu, in un momento in cui gli viene detto appunto Lech Lecha, vai via da tutto ciò che conoscevi, eccetera, senza però che noi abbiamo una conoscenza precedente di ciò che era la vita di Avraham, di ciò che rappresentava, finché non lo incontriamo qui, che la Torah ci dice che lui in questo momento in cui lo incontriamo aveva 75 anni. E allora molti commentatori si sono chiesti e si chiedono: com'è che è stato scelto proprio Avraham? Chi è questo Avraham? Effettivamente, la Torah stessa non ci racconta. Guardiamo i versetti. Il primo richiamo che abbiamo qui sul testo è la fine della parasha precedente, quella di Noach, dove è scritto: Vayechi Terach 70 Shana, Terach, quando arrivò ad aver vissuto 70 anni, Vayoled et Avram et Nahor vet Aran, ebbe tre figli, che erano Avram e i suoi due fratelli, Nahor e Haran. Poi la Torah ci ha raccontato, Vayamot Haran al pene Terach Aviv, che Haran, uno di questi tre fratelli, morì mentre il padre Terach ancora era in vita. Be'eretz moladeto be'ur kasdim. Questo accadde nella terra della sua nascita, la sua terra natia, che era la zona di Ur kasdim. Poi c'è scritto: Vaikach Terach et Avram beno, che Terach prese, quindi portò con sé Avram suo figlio, e andarono via da questo luogo. Vayetzeu itam e'ur kasdim. E tutta la famiglia si avviò verso e fuori da Ur Kasdim per andare dove? Lalechet Arza Canaan, per andare verso la terra di Canaan. Però non giunsero alla terra di Canaan. Il versetto conclude dicendo: Vayavou ad Haran, giunsero solamente fino a Haran, che ancora non è la terra di Canaan, Vayeshevu Sham, e si insediarono lì. Quindi, come se avessero cambiato idea strada facendo. E rimasero in quel luogo là. Invece l'inizio della parasha di Lech Lecha, cosa dice? Vayomer Hashem el Avram, il Signore disse ad Avram, Lech Lecha, va per te, Me'arzecha, dalla tua terra, Umi Moladetecha, e dal tuo luogo natio, Umi Beit Avicha, e dalla tua casa paterna, dalla tua famiglia. E la Arez Asher Arecha, verso la terra che io ti dimostrerò. E conclude dandogli delle benedizioni e poi dice: Vavarcha mevarechecha, e benedirò coloro che ti benediranno, umekalelcha aor, e chi ti maledirà, io maledirò, venivrechuvecha kol mishpechot adamah, e tutte le famiglie della terra si benediranno in te. Si diranno che possa essere come Abramo e così via. E allora, perché è stato, noi abbiamo, siamo stati introdotti a diversi protagonisti. Terach, il papà. Haran era morto giovane, però c'era Avram e Nahor e il padre Terach. Perché di tutti questi è stato scelto Avram? Che HaKadosh Baruch Hu gli ha detto Lech Lecha. Dove abbiamo visto che Avram era migliore di questi altri? Da nessuna parte sulla Torah. Fidiamo di HaKadosh Baruch Ci fidiamo, esattamente. Solo che HaKadosh Baruch Hu ci dice di cercare di capire. Ecco perché cerchiamo di capire. Cioè, l'unica cosa che la Torah stessa ci dice di cosa fece Avram in questi 75 anni, prima di Lech Lecha, cosa è? Di essersi trasferito da Ur Kasdim a Haran. Oltre a questo, la Torah non ci ha detto niente. Stessa cosa che ci ha detto riguardo a Terach e Nahor. E nel commentatore molto classico, il Ramban, il Nachmanide, qui lo citiamo, lui pone questa questione, parole molto semplici e chiare, dicendo, se volete potete seguire il testo, Ramban dice, Hineh zot ha-parashah, questo brano qui, lo be'arah kol ha'inyan, non ha chiarito, non ha spiegato tutto il senso di quanto sta accadendo. Matam, perché per quale qual è il motivo per cui Akadosh Baruch Hu gli dice di lasciare? Sheyomarlo, Akadosh Baruch Hu, che il Signore gli dicesse: Azov arzecha, lascia, abbandona la tua terra, veitiva imach, io farò del bene con te. Tovash lo haitah kamo baolam, un bene che non c'è mai stato un bene così nel mondo. Cioè, Avram diventa il padre di Am Israel, il popolo che è prescelto da Kadosh Baruch Hu per un ruolo particolare. Ma chi è questo Avram? La Torah non spiega perché è proprio a questa persona spetta questa cosa che non ha precedenti. Mi blisce Yakdim, senza anticipare, senza che la Torah anticipi qualche spiegazione, Shai Avraham Oved Elohim, se Avram era uno che serviva al Signore. O come dice riguardo Noè, Noach dice Tzadik, era un giusto, Tamim, era integro. Lì almeno dà qualche spiegazione di chi era questa figura di Noach. Qui non dice niente. Forse qualcuno potrebbe dire, beh, non c'era tanto da raccontare. Forse non ha fatto niente di non ha fatto qualcosa di particolare. Forse non. Però in realtà non è così, perché se noi leggiamo i Midrashim, che si appoggiano anche a quello che è scritto tra le righe sulla Torah, quindi le allusioni che troviamo, e sono molte, troviamo che Avram era un vero rivoluzionario, nel senso positivo e nel senso profondo della parola. Cioè riusciva a far cambiare la mentalità, le idee a moltissime persone sui preconcetti che c'erano, eccetera. Aveva la giusta forza, è necessaria. Esattamente. E non c'era chi appunto usava questa giusta forza quanto la usava lui per combattere delle idee corrotte, dei comportamenti corrotti. Ok? Allora la domanda è ancora più forte, perché la Torah non fa neanche un cenno chiaro a queste cose, a questi concetti. Ora, se noi ripensiamo a questa storia che la Torah racconta di Abraham, vediamo alcune perplessità, oltre quello che abbiamo già visto. La Torah racconta, la Torah allude in questi versetti che noi abbiamo letto insieme, la fine della parasha scorsa, dove si allude a questa cosa di questi tre fratelli, che uno era morto, sembra che stiamo alludendo a qualche cosa di problematico, a delle difficoltà che avevano queste persone. O dei pericoli ai quali dovevano andare incontro. La Torah racconta che questo giovane Haran muore mentre suo padre ancora era vivo e chiaramente i due fratelli ancora erano vivi, Nahor e Avram. E il fratello era Haran, che era più giovane. Perché è morto? Non abbiamo trovato nella Torah fino adesso un giovane che muore durante la vita di suo padre. Allora, vuol dire che la Torah ce lo dice anche per sottolineare qualche cosa. La Torah non racconta le storielle. E si sofferma qui perché prima fa tutta una cronologia molto secca delle generazioni precedenti e qui invece si sofferma la Torah. E questa è una cosa che i Chachamim, citati in un Midrash che qui è citato al numero 2, si pongono questa domanda. Passa conclusiva anche a età più normali adesso in questo È periodo. vero? Sì, più normali, Più non normali, proprio normali, però più esatto. normali, sì. Però questa comunque è una cosa strana. Sì. È un giovane, parliamo di un giovane, anche per quell'epoca, Ma anche però a anche questa epoca. da lì cambia qualcosa, vuol dire. Sì. Allora, nella Pesikta Zutreta c'è scritto Ad atah lo met ben lifnei ha'av. Fino in questo momento nella Torah non troviamo un figlio che muore prima del padre. Ve'lama, ve'ze lama met. Allora cosa è successo che qui è accaduto così che questo è morto? La seconda cosa che non è chiara. Perché in mezzo alla vita una famiglia intera lascia il loro luogo in cui sono nati e cresciuti? E Ramban fa questa domanda. Dice perché sono scappati? Perché sembra che hanno preso e sono scappati. Lama barach mehem Abraham la lechet arza kena. Terza cosa che vorremmo capire. Quando nella benedizione e nelle assicurazioni di bene che HaKadosh Baruch Hu fa ad Abraham gli dice chi ti benedirà io benedirò, chi ti maledirà io maledirò. Una berachà non è così a caso, una bella berachà ti faccio, no, è per rispondere ad una situazione. La berachà che ti serve è la berachà che ti arriva, non la berachà che non ti serve. Allora questo vuol dire effettivamente che forse qualcuno voleva maledire Avram e HaKadosh Baruch Hu lo protegge dandogli questa berachà. Perché qualcuno dovrebbe maledire Avram? Era un rivoluzionario. Oh, bene. Infatti Rambam dice, qui lo citiamo, il More, lo dice nel Moreh Nevuchim, nella guida dei perplessi, per i perplessi, Rambam scrive appunto Shehayu mekallelimu mevasimoto, perché la gente lo malediva e lo faceva svergognare. Velachen emarlo, ed è per questo che gli è stato detto Vavarcha mevarechecha umekallelcha or, che maledirò chi ti maledirà e benedirò chi ti benedirà. È quasi come se questa famiglia avesse un qualche cosa da nascondere, un qualche segreto di famiglia, diciamo del loro passato, e in un certo momento hanno dovuto prendere e lasciare il loro luogo di origine. I Mefarshim, cioè i commentatori, citando i Midrashim, descrivono la storia di Avram prima di questi 75 anni, storia molto nota a molti di noi, che avviene prima che HaKadosh Baruch Hu si rivolge a lui e gli dice Lech Lecha, vattene via. Come dicevamo, Avram era un rivoluzionario, era una persona che teneva una lotta ideologica di dimensioni quasi universali, per cercare di sradicare il paganesimo e l'idolatria inteso in quel senso, proprio di idoli. Avram è nato in una famiglia idolatra. E lo diciamo anche durante la Haggadah di Pesach, al Seder. La Haggadah del Seder a Pesach, noi diciamo, all'inizio, prima di tutto, i nostri avi erano idolatri. Mitechilà ovde avodah zara hayu avotenu. Non nascondiamo il segreto, la storia della famiglia. Ma non solamente facevano parte della cultura pagana della zona e dell'epoca, ma addirittura questa era la loro parnassà. Questo era il loro sostentamento, cioè il padre di Avram Terach costruiva idoli. Vendeva, fabbricava, vendeva idoli di pietra, di legno, e anche il piccolo Avram ha ricevuto la stessa educazione. C'è scritto che all'età di 3 anni ha iniziato ad avere dubbi su tutto questo sistema. Chi ha creato il mondo? Com'è possibile che degli esseri così complessi vengano fuori dal nulla? Eccetera, eccetera. In maniera così. Chi è che fa muovere tutti gli astri, tutti questi movimenti quotidiani, regolari, eccetera, eccetera? Lui conosceva gli dèi che i suoi genitori e i suoi conoscenti servivano e adoravano, e sapeva bene che Era difficile immaginare che questi dei fossero la fonte di questi poteri e di queste forze e di queste energie, essendo appunto esseri inanimi. Il Midrash racconta, leggiamo le parole del Midrash, interessante, Bereshit Rabbah, il terzo paragrafo del numero 2, dice Terach Osetz Lamim, Hayah, Terach era uno che creava questi idoli, Umocheram Laberiot, e li vendeva alle persone. Ora che è successo? Pam Yatzah, una volta Terach è uscito dal suo ambiente di lavoro. Vishiret Avraham l'imkor tachtav. La bottega ha lasciato Avram. Ha detto: Avram, pensa tu alla bottega. Ba Isha, è venuta una signora in Kearam Melea Solet con un piatto pieno di semolina, di farina fine. Ubiksha le akriv lifnei psalim. Vorrei offrire questo agli idoli. Cosa fece Avram? Lakach Avraham makel biyado. Avraham prese in mano un bastone. Shavar et kol ha'psalim. Spaccò tutti questi idoli. V'iniach et ha'makel biyad ha'gadol shebem. Lasciò in piedi l'idolo più grande e mise in mano a quell'idolo il bastone. Kesheba terach v'tamah. Quando tornò Terach e si meravigliò, mi assase, chi ha fatto ciò? Chiese. Si per Avraham raccontò il figlio che Absalim Ravu, che gli idoli litigarono tra di loro perché ognuno di loro voleva quella farina. Mi cabele tasolet. Acebah Hagadol, finché venne quello grande, Benehem, di loro, Ushvaram e li ruppe tutti. Marlo Terach rispose il padre al figlio Atalo Egli, mi stai prendendo in giro? Chiodim hem anasai ma questi idoli forse sanno qualcosa di ciò che succede intorno a loro? Analo Avraham gli rispose il figlio Hashom otoznecha mashepicha omer, forse le tue orecchie sentono quello che la tua bocca dice? Poi il Midrash aggiunge e racconta che Abraham, per questa sua azione, per questo suo comportamento blasfemo e illegale, eccetera, viene portato davanti al re che è Nimrod. E Nimrod tiene con lui una conversazione interessante. Il Midrash dice: Ba Nimrod. Nimrod disse ad Avram, amarle Avram, Ishtachave la'esh, servi, inchinati, prostrati davanti al fuoco per adorare il fuoco, perché Nimrod adorava anche il fuoco come idolo, come Dio. E amarlo Avraham, disse a lui Avram, perché al fuoco, meglio adorare l'acqua, perché l'acqua spegne il fuoco. Yoter tov li ishtachavot lamaim, è meglio prostrarsi dinanzi all'acqua, che l'acqua spegne il fuoco. Buonasera, benvenuti. Amarlo gli disse: Ok, adoriamo e serviamo l'acqua come idolo. Allora perché adorare l'acqua? Mutav li ishtachavot l'ananim. Meglio se serviamo le nuvole che portano l'acqua. Gli dice: Ok, adoriamoli le nuvole. Nishtachave l'ananim. Allora lui risponde: Perché adorare le nuvole? Prostriamoci davanti al vento, che il vento fa muovere le nuvole. Disse Avram al Nimrod che voleva fargli fare la Vodah Zarah, l'idolatria. Allora Avram ha detto: Non c'è nessuna logica nel servire questi dei, questi idoli, che non si capisce da dove traggono la loro forza. E così Avram portò diciamo, l'umanità ad un'idea rivoluzionaria per l'epoca e per quella mentalità, cosa sarebbe questa idea? Che la partenza della creazione e l'inizio dell'universo deve derivare da qualcosa che è al di là completamente di tutto ciò, che non può essere definito con le definizioni della creazione del mondo, perché lì è un ciclo che non si finisce più, come abbiamo visto in questa maniera pittoresca quasi di questo Midrash, no? Allora, ha portato l'umanità a riconoscere l'idea che esiste un'autorità che è infinita e che è al di là di tutti questi limiti, che fa sì che tutto ciò possa esistere, ma che non è governato dalle regole di ciò che ha creato. E questa era l'idea rivoluzionaria di Avraham Avinu. Ora, il Midrash racconta che questo Nimrod, questo re, si è molto arrabbiato di tutto questo discorso, di questa cosa eretica che Avraham raccontava e spiegava, e allora ha detto: guarda, facciamo facciamo il seguente accordo. Adesso tu verrai buttato dentro al fuoco, nella fornace, che sarebbe il dio servito da Nimrod, vero? Quindi questo fuoco che consuma tutto, nessuno si può salvare. E vediamo se questo tuo dio teorico nascosto può fare qualcosa? Avram non si fece spaventare e si fece buttare dentro al fuoco ed è uscito sano e salvo. La Gemara dice nel trattato di Sanedrin e anche nel trattato di Pesachim: Idkabetzu alafim verevavot. Questa non era una cosa accaduta in un minuto. Hanno fatto questa discussione, Nimrod ha detto buttiamola al fuoco. Era una cosa ben pubblicizzata, era una cosa ben seguita da molti. Terach era una persona importante, il papà di Avram, nella corte del re Nimrod, non era uno qualsiasi, e la ribellione del figlio non era una cosa passata così inosservata, e se molto conosciuto il discorso, se molto pubblicizzata la cosa, la Gemara dice: migliaia e decine di migliaia sono venute a vedere cosa accadrà. Il momento in cui Nimrod avrebbe detto: butta Avram nel fuoco. E cosa hanno visto? Che Avram passeggiava all'interno della fornace ardente, come se fosse in un giardino. Tra parentesi, i maestri dicono: non pensare che Avraham Avinu si è fatto buttare nella fornace sapendo che sarebbe stato salvato. Non necessariamente sapeva che sarebbe stato salvato. Sapeva che non poteva negare a Kadosh Baruch Hu. Anche oggi un ebreo è obbligato anche a sacrificare la vita per non adorare un idolo o fare idolatria. E non è detto che se un ebreo viene messo davanti alla spada o davanti a fare una cosa di Avodah Zarah, che se accetta la spada che sarà salvato. Non è detto. Questo vuol dire anche sacrificarsi per il nome di Dio. Avram era pronto a sacrificarsi per il nome di Dio. Kadosh Baruch Hu era pronto di salvarlo, perché aveva progetti per Avraham Avinu. Però non è che lui ha detto: ok, io faccio per te, tu fai per me. Questo non vuol dire sacrificarsi. In ogni caso, ora possiamo capire un pochino meglio tutta questa situazione che la Torah dice, ma non dice, che questa famiglia di Terach se n'è andata via dal loro luogo, dal loro posto di origine. Non era così tanto per vedere come si sta in un'altra città, come gli americani spesso un anno qui, un anno lì, no, non era usanza. Era Ur-Kasdim, anche la parola stessa del nome del luogo, Ur in ebraico vuol dire anche fuoco, Esh. Era un luogo che per loro ricordava quel fuoco. Era un luogo in cui tutta la famiglia doveva subire umiliazioni e forse anche persecuzioni fino a un certo livello da parte del governo, da parte delle persone comuni, eccetera, eccetera. La gente li malediva, in particolar modo ad Avram, perché avevano paura. Il pagano ha una mente molto chiusa, molto superstiziosa. Avevano paura che se Avram fa qualcosa contro gli idoli, forse gli idoli si riverseranno contro di loro. La mente lavora in molte maniere misteriose. E allora, inoltre questo Haran, il fratello di Avram che era morto giovane, non è morto. Cioè non è morto una morte naturale. È morto perché anche a lui lo hanno buttato nel fuoco. Perché lui ha detto, se Avram ha ragione, io sto con lui. Se loro hanno ragione, sto con loro. Era indeciso. E lui non è accaduto il miracolo. È rimasto lì. Esatto. Promesse. Allora è rimasto lì. E allora perché la Torah non ce lo dice? Qui, secondo queste spiegazioni, questi midrashim, questi approfondimenti che sono allusi. Torah allude che sono dovuti andare via, che quello è morto e tutto quanto, però non dice niente di chiaro. Perché? Vayomer Hashem el Avram lech lecha. Ma dove? Ma quando? Ma perché? Ma chi? Ma cosa? Vai dalla tua casa. Che vuol dire? La Mishnah dice, vediamo la fonte numero 3. La Mishnah dice, nel trattato di Avot, solo una riga, che leggiamo adesso. Asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu. Il nostro padre Avraham è stato messo alla prova per 10 volte, 10 prove da superare. Ve amad bekulam. E le superò tutte queste prove. Secondo molti maestri e molti commentatori, il senso di queste prove alle quali è stato messo Avraham era proprio per fare approfondire ad Avraham stesso le energie e le forze nascoste che aveva dentro di sé. Quelle prove lo hanno aiutato a tirare fuori delle capacità che prima erano nascoste. Come anche per noi può essere una prova, forse non sul livello di Avraham, però come concetto. Si applica anche a ognuno di noi. Quando veniamo messi davanti ad una sfida, davanti ad una prova, allora potremmo vederla come una problematica impossibile da superare, quindi una fonte di stress, di altri problemi ancora, eccetera. Oppure potremmo vederla come una sfida da superare, come qualcosa che richiederà da noi delle forze che normalmente non sono richieste. E quindi ci farà crescere, ci farà anche conoscere noi stessi meglio, perché sarà necessario approfondire più di quanto normale non fosse necessario, eccetera. Quindi il modo che HaKadosh Baruch Hu, diciamo, ha adoperato per portare Avraham al massimo delle sue capacità e per rivelare le sue potenzialità era attraverso queste prove, queste Nisyonot si chiamano. Anche perché quando una persona, diciamo, è pronta a mettere da parte, a rinunciare a qualche cosa di proprio per mantenere il legame con HaKadosh Baruch Hu, o per approfondire quel legame, allora questo è un sentimento molto più profondo di quel legame, perché va ad indicare anche alla persona stessa quanto in realtà è legato. Sei pronta la persona a rinunciare a qualcosa per quel legame, vuol dire che il legame è più importante di quella cosa. E più approfondisce, più trova quanto è profondo e quanto è legato, in effetti, a ciò che ama, a ciò che è legato. Allora, vediamo qui un piccolo paragrafo di un discorso, un intervento del Rebbe sulle difficoltà. In particolare stava parlando in particolare, era un discorso legato alle donne, quindi qui sta parlando delle donne, però è un discorso che è legato a tutti. E dice così: Kasher isha nitkelet bekoshi mesuyam. Quando una signora, una donna si imbatte in una determinata difficoltà. Difficoltà legata a portare a termine i propri obblighi divini, cioè le mitzvot, bebitzua chovotea elokiot. Allora ci si imbatte in una difficoltà. Perché? La prima cosa che ci chiediamo: ma perché? Ma cosa ho fatto? Io non ho fatto male a nessuno. Non... Perché? Perché? Yesh lekach hesber muvan me'elav. Ci dice, c'è una semplice spiegazione che si può capire da soli, cioè che è autocomprensibile. Cos'è? Oshe akoshi mufras benea. Potrebbe essere A, o che la difficoltà è esagerata nei suoi occhi, cioè si dà più importanza alla difficoltà, a quell'ostacolo, più di quanto in realtà lo è. A volte noi nella nostra mente rendiamo più importante il problema di quanto obiettivamente il problema sia. Oppure, vim hu bilti ragil bemet, se invece è davvero una cosa fuori dalla norma, a livello di problematica, allora mehava uvda zu hochacha, questo fatto è di per sé una indicazione e una prova, cioè HaKadosh Baruch Hu he'enikla kochot bilti rigilim, che HaKadosh Baruch Hu le ha concesso dei poteri non regolari, non normali, più profondi. Cioè, se il problema non è normale, vuol dire che le tue capacità non sono normali, nel positivo, nel bene. Ha'yicholim lavoli degilui, e queste capacità sono così profonde che possono venire fuori. Possono essere rivelate solamente quando? Solamente dovendosi interfacciare, interagire con qualcosa di molto difficile, con qualcosa di molto duro, con una prova particolare. Nisayon meyuchadim beminam. Particolare. Bemikre kaze, in un caso di questo tipo, in tale caso, yesh la et harevach. Questa persona ha il guadagno, tra virgolette, ovvero il beneficio, grazie, Shehim Megalla Benafsha, che riesce attraverso questa prova a rivelare dentro di sé, et hakochot abilti regilim, quelle forze, quelle capacità non regolari, al di là del regolare, queste qui. Umachnisautam el magar kochateh hamudaim. E in qualche maniera lei fa rientrare queste capacità particolari nel suo arsenale di capacità normali. No? Cioè, non sapeva di averlo, adesso che sa che ce l'ha, può usarlo in qualsiasi momento. Però grazie a che cosa? Grazie al fatto che è stata messa la persona davanti a quella prova molto importante, molto dura. Secondo il principio che le prove che ci mette davanti a Hashem è perché davanti a prove che siamo in grado di superare. Esattamente, esattamente questo è il principio. Se HaKadosh Baruch Hu ci mette davanti ad una prova, vuol dire che ci dà anche la chiave per superarla. Perché se non ci avesse dato la chiave, non ci avrebbe messo davanti a quella prova. En HaKadosh Baruch Hu ba bitrunia in briotava. HaKadosh Baruch Hu non viene. Non si presenta a noi in una maniera di quasi una presa in giro o di vediamo se ce la fai. Non è questo quello che fa Kadosh Baruch Hu con noi. Tornando nello specifico alle prove di Avraham Avinu, Ma quando ha fatto la prova della fornace, che prova era, diciamo, da verso l'abità e le altre Oh, prove? allora, Non mi ricordo. di questo adesso parleremo un attimo. Qual era la prima prova? Perché forse c'è chi dice buonasera, benvenuto. Forse c'è chi dice che questa era la prima. Vediamo un attimino. Allora, c'è una discussione in realtà tra i commentatori. Vieni Fabio, a cavolta. No, no, no. Quale era in effetti la prima prova davanti alla quale era stato messo Avraham Avinu? Allora, appunto, come dicevo, c'è discussione tra i commentatori. Secondo alcuni, le prove iniziano con Lech Lecha e finiscono con Lech Lecha, che in due luoghi noi troviamo le parole Lech Lecha. Ovviamente all'inizio della nostra parasha, che abbiamo già citato, e secondo alcuni questa è la prima prova, quando gli viene detto Lech Lecha, vai via da tutto quello che conosci verso il luogo che io ti indicherò, senza dirgli neanche dove o come di preciso. E alla fine della parasha di Vayera, che è la prossima parasha, anche lì c'è scritto questo termine, Velech Lecha el Eretz Amoria. Chissà a che cosa si riferisce questo? La legatura di Yitzhak, perfetto. Vai alla terra della Moria, Ve'aleu Sham Le'olah, e portalo sull'altare lì a tuo figlio come un Olah, una Olah è un sacrificio che è portato verso l'alto. Alacha de orima e arima shera omare lecha, su uno dei monti che io ti indicherò. Anche lì c'è scritto Lech Lecha. E questa opinione la troviamo nel Midrash Tanhuma, e lo vediamo qui citato, dove dice Nisayon Arishon, la prima prova alla quale è stato sottoposto Avraham Avinu era Lech Lecha me'artzecha, l'inizio della nostra parasha, vai via dalla tua terra. E l'ultima, Venisayon Acharon, Lech Lecha el Eretz Amoria, vai alla terra della Moria, dove c'è il monte Moria, che poi diventa l'Arabait, il monte del Tempio, quel stesso monte. Però, in un commento di un importantissimo Rav di origini italiane, Rabbi Ovadia di Bertinoro, quando lui commenta, lui è famoso per il suo commento sulla Mishnah, anche se ci sono anche altre opere sue, il commento sulla Mishnah dove dice che Avraham Avinu è stato sottoposto a 10 prove, lui fa una lista delle prove e dice che la prima prova era prima di Lech Lecha. Non è registrata nella Torah la prima prova, perché noi incontriamo Avraham adesso quando ha 75 anni, ma già prima aveva i suoi pregi, aveva superato alcuni ostacoli, alcune prove. E lui dice, il rabbino Vadia di Bertinora, che Bertinoro, che era questo essere buttato dentro la fornace ardente con il re Nimrod, che disse: se tu credi che il fuoco non è da adorare, non è un dio, allora ti buttiamo nel fuoco e vediamo se potrai salvarti, come abbiamo detto prima. Appunto, citiamo il Bartenora o Bertinoro, dove dice Asara Nisyonot, il primo, qual è il primo delle 10 prove? La prima è Echad Ur Kasdim. Era in quel luogo di Ur Kasdim, il luogo di origine, la terra natia di Avraham, dove Sheishlichon Nimrod le Kivshana Esh, dove Nimrod lo fece gettare all'interno della fornace di fuoco. Sheni, e secondo lui la seconda prova era questa qui di Lech Lecha. Ma la prima era quella. Se così fosse, è ancora meno comprensibile perché la Torah non ci dice niente. Se così fosse che questa è considerata la prima prova, allora sicuramente la Torah forse ce lo dovrebbe dire. Perché non ci ha detto niente fino a questo momento che Avraham Avinu già ha 75 anni. Allora, noi abbiamo citato prima il Nachmanide che ha posto questa domanda, perché la Torah ci introduce ad Avraham nel mezzo della sua vita, senza raccontarci nulla esplicitamente di ciò che è accaduto prima, e Il Ramban risponde in un senso molto semplice, dicendoci che la Torah non voleva entrare nella descrizione di tutto l'operato di Avram prima che lui andasse via dal suo posto, perché vorrebbe dire questo, entrare in tutte le descrizioni delle azioni e dei comportamenti idolatri e pagani dei popoli e delle genti contro i quali Avram ideologicamente combatteva. La Torah non è interessata a descrivere cosa facevano, che tipo di idoli adoravano, qual era questa mentalità, qual era questo comportamento. La Torah dice no, iniziamo direttamente, diciamo, dal pulito, dal momento in cui Avram lascia tutto questo e gli viene detto Lech Lecha, vai via, rinizia da capo. Lì noi iniziamo con Avram. Non è anche perché si rischiava di rendere soprannaturale anche Avram? Come? Una persona, diciamo, fuori dal normale. C'è il rischio anche questo. Cioè? Non so, è che sopravvive alla fornace. Umana. Ecco, forse anche che forse qualcuno avrebbe adorato Avram. Esatto, bene, il rischio può di essere. Quello è anche... Sì, sì. Non mi sembra ricordare nessun altro che sia sopravvissuto a una prova del genere. C'è anche un'altra storia di Hanania, Mishael e Azariah. Sulla Torah. Sui profeti. Ah, sui profeti. Sì. Comunque no, non è sbagliata come idea. Il Ramban però risponde con questa semplicità, dice così, cioè abbiamo la citazione. Dice a Torah, al numero 4, a Torah lo tirzele ha'arich, la Torah non vuole allungare i discorsi badeot of the gilulim, sulle opinioni e sulle idee degli idolatri, dei pagani. Non ci interessa. Ule faresha inyan, shaya beinovena kastim beemuna, e raccontare a noi le discussioni ideologiche che avvenivano tra Avram e i Casdei su questioni di fede. Kasher kitzra beinyan dor enosh besfaratam beavodat kilulim shechichu. Così come la Torah non ha detto, ha detto forse una mezza parola riguardo la generazione di Enosh. La generazione di Enosh è la generazione che ha inventato il paganesimo, l'idolatria. L'umanità non è nata con il paganesimo. Guardiamo la nascita dell'umanità di Adam e Chava. Sono consci, è molto chiaro per loro, anche per i loro figli e nipoti, chi è il padrone del mondo e chi è il creatore. Con il tempo e con la corruzione è arrivata anche l'idolatria e il paganesimo, che non è partito inizialmente con un negare totalmente la divinità, è partito come quasi un favore al divino, come dire, Dio ha molto da fare, molto occupato con grandi cose, non si occupa del nostro piccolo mondo, l'ha dato in mano a degli agenti, come il sole, la luna, e che ci danno il bene, che fanno crescere tutto quanto quello che cresce, eccetera, e quindi anche i ministri del Signore vanno adorati, gli va dato qualche regalino, qualche busta, qualcosa, e qui nasce l'idea non dell'idolatria, diciamo una mezza idolatria, si chiama in ebraico shituf, un'associazione, un associare la divinità non solo a Dio ma anche a delle altre entità. E piano piano è diventato un business. Perché chi gestiva i luoghi di culto sapeva gestire tante cose, tante entrate, tante uscite, e così più potere si prendeva, più si gustava, e più era buono, e più allora piano piano è diventata un'idolatria, un paganesimo totale. Questo era nel periodo di Enosh. La Torah ne ha detto qualcosa? Ha alluso un pochino e basta. Che la Torah non vuole entrare in questo discorso, dice Ramban Nachmanide, non vuole dare validità, non vuole dare importanza. Possiamo trarre queste informazioni da altre fonti se ci servono, ma non è importante per formare noi, per formare l'ebreo, che quella è la Torah. E questo da un punto di vista molto pragmatico, dice Ramban, non serviva, non ci interessava raccontare tutto quel passato di Avram Avinu. Però c'è qualcosa di più profondo. Anticipata da una storia, da un aneddoto. Si racconta dei tempi del Baal Shem Tov, che arrivò una voce al Baal Shem Tov che nella sua città, che lui era nel luogo che si chiamava Mezhibuzh, c'era un semplice sarto, molto semplice a livello di cultura, che ultimamente è venuto fuori che lui dava delle benedizioni alle persone. A questo gli diceva che Dio ti benedica con questo, che ti benedica con quello. Poi a un tratto la gente si è accorta che ogni cosa che lui diceva si verificava davvero, si realizzavano le sue benedizioni. La gente è rimasta così, dice, ma com'è possibile? Ma poi una persona sconosciuta, semplice, ignorante, forse anche neanche... era molto strano. Hanno detto forse è un cabalista nascosto, forse è un tzaddik di quelli che si nascondono, eccetera. Alcuni addirittura volevano scomunicarlo, per dire forse tu sei qualcosa che non dimostri di essere, nascondi qualcosa, forse sono delle cose negative, chissà cosa c'è dietro, eccetera. Allora il Baal Shem Tov gli è venuta questa voce e ha chiesto di parlare con questa persona. È venuto a parlare con il Baal Shem Tov. Il Baal Shem Tov lo ha visto e gli ha chiesto: raccontami se recentemente hai fatto qualche buon atto, qualche cosa di beneficenza o di bene. E ha detto: ti posso raccontare una cosa che mi è successa. Cosa è successo? 3 anni prima di questo era rimasto senza lavoro. Non si lavorava, crisi. Allora ha deciso di fare società con un altro sarto per compagnia e di fare il sarto itinerante, di andarsi a presentare alle corti dei nobili locali. Se avessero qualche lavoro lo possono fare sul posto, è un servizio a domicilio. E così fece insieme a quest'altro sarto. Venne fuori una buona idea perché chiaramente i nobili erano più abbienti, avevano possibilità di pagare meglio, apprezzavano il fatto che veniva il sarto da loro, eccetera, e così hanno fatto un po' di business. È successo che in una delle corti di uno dei nobili erano stati accolti dalla signora del nobile. Dicendo con grande gioia, perché dicendo che tra un po' sarebbe stato il matrimonio della figlia e lei stava effettivamente cercando dei buoni sarti proprio in quel momento, erano capitati proprio così. E allora hanno lavorato molto duro, giorno e notte, per preparare tutti questi vestiti speciali da ballo, da festa, eccetera. E la signora era molto contenta del loro lavoro e le ha detto: rimanete qui, abbiamo lavoro per voi, fisso. Loro sono rimasti lì vicino e facevano tutto quello che serviva per la sartoria di tutta questa corte, i loro servi, i loro soldati, eccetera, eccetera. Per 3 anni hanno avuto lavoro lì. E dopo questi 3 anni, grazie a Dio, hanno potuto mettere da parte delle belle somme, ognuno di loro, ha detto: ok, adesso almeno torniamo a casa, possiamo mantenere la famiglia e pensare come investire per andare avanti a mantenere la nostra Parnassà. Bene. Come sono rientrati nella loro città, hanno sentito da una delle ultime case, una delle prime case alle quali si sono avvicinati entrando in città, quindi nella periferia, pianti, urla, qualcosa è successo. In pratica, cosa era successo? Che praticamente doveva esserci un matrimonio tra un orfano e una orfana, che non avevano nessuno. In realtà, non solo non avevano nessuno, ma non avevano nulla di beni. Avevano fatto un po' di progetti, ma non c'era nessun tipo di possibilità di coprire la spesa. Erano arrivati al punto in cui si stava per annullare completamente il matrimonio, la Chuppah e la festa e tutto. Allora noi due ci siamo guardati, dice questo sarto, io e il mio compagno sarto ci siamo guardati, ognuno di noi sapeva che ognuno di noi ha in tasca una bella somma. E con gli occhi ci siamo fatti questa domanda, no? Però il mio compagno ha risposto alla domanda con gli occhi, ha risposto dicendo, mi dispiace. Io non ero a casa per 3 anni, quello che ho in tasca è dedicato alla mia famiglia. Mi dispiace, per favore, non farmi questa domanda. Ha preso e ha continuato per la strada. Io non potevo rimanere indifferente davanti a questa scena, dice il sarto, e ho preso quello che avevo in tasca e l'ho lasciato con loro. Sono tornato a casa senza niente. Dopo 3 anni. Da quel momento non so cosa è successo, ma qualcosa è successo, dice il sarto al Baal Shem Tov. Qualcosa è cambiato. Ogni cosa che io dico si verifica, si realizza. E allora dico a una persona che tu possa avere successo, vedo che l'indomani la persona ha successo, e così via. Come se HaKadosh Baruch Hu avesse detto a me quello che ha detto ad Avram, che chi ti benedice sarà benedetto e chi ti maledice sarà maledetto. La vera storia di Avram non sono quelle grandi cose che ha fatto prima che l'abbiamo conosciuto al momento che HaKadosh Baruch Hu gli dice Lech Lecha, vai via. Ci sono molte grandi persone, grandi figure che hanno fatto grandi cose. Ci sono anche molti filosofi che erano pronti nella storia a sacrificarsi per le proprie idee, e non solamente nel popolo ebraico, in tanti popoli, in molti popoli. Avraham Avinu è quello che non solo ha fatto tutto questo, di cui la Torah sceglie di non raccontarci, ma come adesso vedremo in un attimo, Avraham Avinu è quello che ha creato un legame tra l'uomo e Dio, tra il finito e l'infinito. È quello che ha varcato la soglia che normalmente sarebbe stato impossibile andare oltre. In che senso diciamo questo? Avram, nella nostra parasha, gli viene data una missione. Lech Lecha. Una shlichut, una missione. Cos'è questa missione? Di rappresentare ciò che è al di là della natura. Di far conoscere la forza divina che fa sì che la natura possa esistere. E di farlo riconoscere dalle persone. Il Ramban, sempre cito di nuovo, ma il Nachmanide dice che cos'era questa missione? Dice in due parole. La missione di Avraham Avinu è, può essere inclusa in queste due parole, Mefarsem ha'elokut, colui che faceva pubblicizzare il divino. Come se Avram nel fatto che gli viene detto Lech Lecha viene assunto come responsabile del marketing di HaKadosh Baruch che è andato da Cesare e gli ha detto fammi qualche insegna, fammi qualche marketing. Non è una sfida semplice di fare il marketing per un brand, per una cosa che non solo non è conosciuta, ma quando è conosciuta in male, tra virgolette. Cioè ci sono tutte le contromarche, tutto il mercato gli va contro, per fare questa metafora, no? Anzi, tu vuoi fare il marketing di una cosa che non si vede. Impossibile, praticamente impossibile. Specialmente se c'è un fortissimo marketing di tutte cose che belle che si vedono. di tutti quei idoli, di tutto quel paganesimo, di tutta quella ideologia, di tutta quella cultura fortissima, che l'immagine, come sappiamo oggi, è fortissimo. Forse la nostra idolatria è la stessa cosa, è sempre l'immagine che abbiamo oggi, no? A volte può diventare così. E allora, nel senso più semplice della parola, Avraham Avinu era il primo della storia che ha, diciamo, ha portato avanti la sua vita secondo una chiara definizione di un'indicazione superiore, divina, di un'autorità che non è la mia, non è umana. Dal momento, dalla mattina, fino alla sera, il suo comportamento non era dettato da ciò che lui personalmente pensava fosse giusto, corretto, bello, comodo, ma era dettato da questa missione. Quindi non era più una persona che portava avanti un proprio messaggio, ma era il portatore di un messaggio che era più grande di lui. Era un tramite, un portatore di. Allora, quando la Torah ci dice, Vayomer Hashem el Avram, il Signore disse ad Avram, Lech lecha me'arzecha u'mimoladetecha. Vai via dalla tua terra, vai via dal tuo luogo natio. E lui è andato via. Questo forse è il versetto in cui si fonda, si crea il popolo ebraico. Gli hanno fatto vedere dal cielo la direzione e lui ha seguito e ha cambiato la sua vita. La Torah vuole sottolineare che il primo ebreo, Avraham Avinu è considerato in un certo senso il primo ebreo, anche se tecnicamente Am Israel si forma nel momento del dono della Torah, dopo l'uscita dall'Egitto, ma sempre ci riferiamo ad Avraham Avinu come il primo ebreo. La sua grandezza non sta nella sua forza personale, perché come abbiamo detto, ci sono molti che hanno saputo essere, dimostrare una loro forza personale in tutti i popoli e in tutte le epoche. La grandezza di Avraham Avinu sta nel fatto che HaKadosh Baruch Hu, in qualche maniera, lo ha scelto e l'ha detto: sei tu responsabile di portare avanti il mio messaggio. Certo, ha avuto dei meriti per cui HaKadosh Baruch Hu ha deciso così. Però dove sta la sua grandezza? Nel fatto che effettivamente HaKadosh Baruch Hu lo ha scelto per questo messaggio, per portare avanti questo messaggio, dicendogli cosa? Lech Lecha. Questa era la nomina. Ora possiamo capire per quale motivo in realtà questa era la prima indicazione che gli viene data. Perché la prima indicazione che viene data ad Abramo è quella di andare via dalla sua realtà, da tutto ciò che per lui era normale. Forse poteva essere il portatore del messaggio nel luogo in cui già si trovava. Oh, Andare via interiore, via spirituale. bravo. Esattamente. A parte il fatto che doveva lasciare la Certo, sua famiglia, quindi non come poteva fatto? portare rispetto ai suoi genitori, andando in un altro luogo, no? Quindi c'erano varie problematiche. Inoltre, la Torah dice: vai via dal Me'arzecha, cioè dalla tua terra, Ummi Moladetecha, dal luogo in cui sei nato. E Beit Avicha, che letteralmente vuol dire la casa di tuo padre, che vuol dire dalla tua famiglia. Non è il contrario. L'ordine delle cose. Prima esci dalla tua famiglia, poi dal luogo in cui sei nato, poi dalla tua terra, dal tuo paese. Perché questo ordine qui? Allora, come diceva Alberto, questo Lech Lecha, questo cammino, non è solamente un cammino a livello geografico, è anche un cammino metafisico all'interno dell'anima. È un percorso che avviene dentro la persona. Un cambiamento da così a così, un cambiamento totale. Non è una crescita. Una crescita vuol dire prima è piccolo, poi è grande, ma è sempre lo stesso. È un cambio, una trasformazione molto più profondo di una crescita. Allora per questo Avram gli è stato detto, Lech lecha, vai via dal vecchio Avram e ci sarà un nuovo Avram. Non un Avram che è meglio di quell'Avram, un altro trasformato. Non è più una persona che pensa come una persona, ma è una persona che ha dei principi divini che porta dentro di sé e segue. E fanno parte di lui per sempre. E quindi nel senso dell'anima, l'ordine che la Torah dice vai via da la tua terra, eccetera, è molto esatto. Perché la terra indica il modo di pensiero della persona. La terra cos'è? Tuo paese. Una persona quanto è associata con il proprio paese? È associata col proprio paese, però può anche cambiare paese. Non è fino a proprio il midollo dell'anima, diciamo così, no? È una cosa più generale. Però quando parliamo del suo nuovo luogo natio, rispetto al suo paese in generale, è una cosa un pochino già più profonda, più intima. Qui sono nato, qui ci sono. Sono abituato ai modi, ai pensieri, alla mentalità, alla cultura. Poi quando parliamo della famiglia, è ancora più profondo il legame. Allora questo andare via in questo senso non è solamente Lech Lecha, vai verso Eretz Israele. Forse è più importante l'andare via da qui che l'arrivare lì. In un certo senso. Vai via da te stesso, poi è automatico che arriverai. Qui il punto non è di arrivare, è di andare via, è di trasformarsi. Diciamo, la scaletta è questa. Anche la parola Eretz allude a questo, perché vai via dalla tua terra, che terra è Eretz? Eretz è associato con parola anche razon. Correre, ma anche razon. La Gemara dice perché si chiama Eretz? Perché Ratzar la sot Rezon Konan, perché ha voluto. Razon vuol dire volere, volontà. Però sì, c'è anche questo, però c'è anche Razon, volontà. Allora vai via dalla tua terra, vuol dire vai via dalle tue volontà naturali, dai tuoi desideri, istinti naturali con i quali sei nato. Moladetecha, il tuo luogo natio, è un riferimento ai tuoi sentimenti. I sentimenti sono una cosa con i quali una persona in realtà nasce e poi sviluppa. Però sono sempre lì e spesso sono quasi gli stessi, ma sviluppati in fasi diverse, in modi diversi. Trasformazione. Vai via anche da questo. E dalla tua casa paterna si intende la fonte di quei sentimenti, come un padre è la fonte dei prodotti dei figli, cioè la mentalità, il modo di pensare, la razionalità della persona, dei quali poi i sentimenti sono frutto. Cambia tutto. I tuoi desideri non sono più i tuoi desideri, i tuoi sentimenti non sono più i tuoi sentimenti, i tuoi pensieri che razionalizzano quei sentimenti non sono più gli stessi, perché c'è un altro schema, in altre parole. Cambia lo schema, questo effettivamente sta dicendo. Trasforma. Cosa rappresenta mettere la kippah? Ora vediamo cosa c'entra. Una volta si racconta una piccola battuta che hanno chiesto a un piccolo bambino: da dove è scritto che bisogna mettere la kippah? Come si dice? Dove sta scritto? Andò sta scritto? Dove c'è scritto che bisogna mettere la kippah? Vai a vedere su tutta la Torah se c'è scritto se bisogna mettere la kippah. Allora il bambino ha detto, come è scritto nella parasha di Lech Lecha? Lech Lecha? Dove c'è scritto nel Lech Lecha che bisogna mettere la kippah? Cioè, beh, c'è scritto Lech Lecha che Avram doveva incamminarsi. Ti può saltare in mente che Avram si incammina senza una kippah? Allora vuol dire scritto che bisogna mettere la kippah. In realtà non è una mitzvah di mettere la kippah, è un minhag, nasce come un'usanza, anche relativamente recente. Lo vediamo già nel Talmud, l'idea di coprire la testa di alcuni maestri che non camminavano più di un minimo senza avere la testa coperta, eccetera. Però qualche spiegazione darono, diedero. Nel Talmud dicono, uno dei maestri ha detto, io non mi muovo più di tanto senza coprire la testa perché? Perché la Shekhinah, la presenza divina, è sopra la mia testa. Allora non posso non coprire la testa. Si racconta anche nel Talmud di uno dei maestri, Rav Nachman Bar Yitzchak, che quelli che leggono le stelle, gli astrologi, gli astronomi, gli hanno detto alla madre, prima che lui nascesse, che tuo figlio che sta per nascere sarà un ladro, secondo le stelle. Allora lei, da quando è nato questo figlio, gli metteva, gli copriva la testa. Un giorno gli è caduta la kippah e lo hanno accusato di aver rubato qualcosa. Che sembrava che, siccome ha preso dei datteri che erano caduti da un albero, sembrava che non erano suoi, eccetera, è venuto questo sospetto. In realtà non aveva rubato, però c'è qualche legame tra il timore di Dio, cioè una rettitudine morale, e il coprirsi la testa. Però la Gemara parla solo di alcuni maestri importanti che tenevano questo comportamento. Anche in tempi più recenti del Talmud, sempre abbastanza antichi, diciamo rispetto a noi, però nei poskim come Rambam, Maimonide, eccetera, vediamo che è bene coprirsi la testa, però nessuno, non dicono è obbligo mettere la kippah. Più avanti troviamo che in poskim ancora più recenti è vietato andare senza una kippah. Come che è diventato un divieto, diciamo che una volta è stato accettato di coprirsi la testa. Allora, chi fa diversamente cambia dall'usanza regolare. Infatti, vediamo anche differenze tra Ashkenaziti e Sefarditi. Troviamo, per esempio, in comunità sefardite molto religiose che si mettono la kippah solo in momento di tefilà o di mangiare, perché in quelle località non si è sviluppato in questa maniera, mentre in altri posti del mondo si è sviluppato lì, allora diventa un divieto togliersela la kippah. Come si sviluppa l'alcanche? Questo è un tema a sé. Però l'idea della kippah è che rappresenta ciò che è al di sopra di noi. Cosa è al di sopra di te? La persona che porta la kippah indica che ha un messaggio, ha una missione, come Avraham Avinu aveva una missione. Che c'è un motivo che rappresenta qualcosa e rappresenta innanzitutto un certo senso di umiltà. Il mettere la kippah è come dire: non sono io che conto, è il messaggio che porto, è chi è sopra di me che sto cercando di rappresentare. Non guardare me, guarda il messaggio che sto cercando di trasmetterti attraverso di me. Quindi è un modo di rendersi piccoli, di rendersi umili, di mettersi un attimino da parte, ma dall'altra parte questo fatto di mettersi da parte è proprio quello che contribuisce anche alla nostra esistenza. Perché essere umile, il mettersi da parte, dare importanza al messaggio che si porta, più a chi porta il messaggio, più di a chi porta il messaggio, chi è quello che lo porta, non è importante. L'importante è cosa è il messaggio che si porta. Allora il messaggio sopravvive. E di conseguenza chi lo porta sopravvive uguale. Ecco, forse perché ami Israele. È qui, perché Am Yisrael sa, consciamente o inconsciamente, che è portatore di un messaggio. Non è qui per prepotenza, e non è qui per forza fisica, è qui perché il messaggio è più forte di lui. Messaggio divino. Allora le grandi culture, le grandi potenze, tutto quanto che può esserci stato, è passato e passerà, perché non è più forte del messaggio, non è più forte del messaggio divino. Non solo, ma all'epoca con Avram era unico contro tutta questa, contro tutta l'umanità, contro tutto il mondo praticamente, ed è stato buttato per questa fede dentro alla fornace. Ma questa fede di Avraham Avinu, la base di quella fede, quella della fede in un unico creatore, oggigiorno, ormai è una cosa normale, in grandissime parti dell'umanità, del mondo che noi conosciamo oggi, questa è la fede normale. Con tante cose intorno, possono essere tante corruzioni, tante idee strane, eccetera, eccetera. Però, come concetto generale, è una cosa che veramente ha cambiato il mondo. Che noi vediamo fino ad oggi. Allora, diciamo così, per concludere, è vero che in effetti non è facile essere un discendente di Avraham Avinu. Ed è vero che non è mai stato facile, però, ebbene, siamo contenti di essere discendenti di Avraham Avinu. Non è possibile. Non è possibile.